L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, ciccia, zanzare dal nero mantello, ciccia. Il vostro programma sei bello, ciccia. Sollazzateci ancora di più. Guarda che se questa notizia fosse vera, quella che ho letto oggi sui giornali, caro Parenzo, sarebbe veramente una roba incredibile, che alla fine conferma quello che penso di questi signori che pensano, che sostengono che il mondo vegano, il mondo vegetariano sia il migliore dei mondi possibili. Cioè, questa è gente... Qualche volta sarebbe necessario toglierli i figli, quasi toglierli. Beh, però, sì. Tu parli del caso come i rom, come quando tu parli quando, del caso di cui parlo di giornali oggi, cioè del bambino ricoverato d'urgenza all'ospedale Meyer di Firenze. Ma se fosse vero che questo piccolino, questo bambino di 11 mesi, appena ha visto un omogenizzato alla trota, sì, no, si ride ma si piange, dire, in realtà, scusa, si è aperto il volto, si è messo a sorridere e ha cominciato di nuovo a vivere. Se fosse vera questa cosa, che era denutrito perché questi signori erano vegani integrali e non davano la possibilità a questo bambino di mangiare come tutti i cristiani, come tutti i bambini, beh, io dico che come per i bambini dei rom che vanno a rubare e bisogna togliere la patria potestà, e bisogna fare la stessa cosa per questi bambini. A questo punto direi di risentirci in apertura di questa trasmissione di oggi. Siamo qui all'Expo, dove fra poco mi andrò a mangiare. Sei all'Expo? Sì, sono all'Expo, dove mi vado a le cavallette, vai a mangiare la carne di coccodrillo. La non carne è vero di coccodrillo? Sì, sì, sì. Non è vero. Allo Zimbabwe, credo. Ma Zimbabwe. Che porcheria, carne, ma ottima. Perché? Perché? Perché? Assaggiata, scusa. Come ma, fai a dire che è una porcheria? Mi fa impressione. Credo che fra pochi giorni ci sarà anche, oltre alla carne di coccodrillo, ci sarà anche l'hamburger di coccodrillo. Ti giuro, sì, così allo stand dello Zimbabwe. Ma non mi piace. Che ne sai? Ma qual rispetti, è il problema? Rispetto lo Zimbabwe, ma non mi piace la carne di coccodrillo. Ma hai assaggiato la carne di coccodrillo? Ma io posso dire che mi fa orrore la carne di coccodrillo? Perché? Posso o no? Ma perché? Sì, perché è un gusto. Comunque, non... ragazzi, in onore dei vegani, di questi stronzi di vegani integralisti. Ma non sono tutti, degli stronzi, però non puoi generalizzare. Gli integralisti vegani sono come gli integralisti islamici, cioè sono degli stronzi. Montanini. Io non sopporto, detesto i vegani, però ci sono due motivi, uno personale, uno universale. Quello personale è questa boria, lo so che ci stanno i vegani, mimetizzati, ma uno è personale, cioè questa boria che hanno i vegani, che nella vita possono pure aver ragione, perché uno che vuole salvare tutte le forme di vita è bello come concetto, ma questa boria di insegnarlo a tutti che loro conoscono la verità, mi dà fastidio. Volete fare la rivoluzione, vegani? Contro il potere. Domani mattina ammazzate Francesco Amadori. Ah! Suoni alla porta. Parola di Francesco. Giorno dopo Giovanni Rana, solo ricotta e spinaci. Solo ricotta e spinaci. E nel caso di ricordare anche il mitologico Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia sui vegani. I vegetariani li posso capire perché è una cultura, ma i vegani sono proprio dei coglionati, perché ammazzano gli animali, perché fanno estinguere le razze, perché se un animale non serve a niente, la gente non lo alleva. E dopo aver dato ancora oggi sui vegani, beh, se ne sentiva il bisogno, caro Parenzo, adesso parliamo un po' di politica, se ne sentiva il bisogno di un nuovo movimento politico, di una nuova formazione politica, quella che è stata annunciata dal signor Della Valle, dal signor Della Valle, il quale vuole, certo. Lui dice non voglio fare un movimento politico, però se ne sentiva davvero il bisogno. Ma non l'aveva già minacciato tempo fa di fare? Com'è che la vuole chiamare noi italiani, italiani, italiani per sempre? No, Pedro, non mi ricordo, c'è anche Passera, c'è sempre italiani che ha fatto di mezzo. Già il suo... No, quella è Italia Unica. Ah, quella è Italia, ecco, Unica. No, ma c'era l'Italia, Unica, c'era però. Questa che sembra lo spot di un negozio di mobili. No, ma non è quello, dovrebbe Italia chiamarlo Unica per l'ennesima volta. Lo dico a Passera che ogni tanto incrocio. Chiamalo Forza Passera. Chiamalo Forza Passera, sto movimento. È molto meglio, quello è molto meglio. Della Valle, che critica Renzi e il governo di One Man Show. Ci sono alcune persone che avrebbero titolo a dire qualcosa, ma mi pare che questo sia un governo con un one man show, con un one man show che non fa parlare gli altri, probabilmente anche perché magari non li stima lui. Allora, un simpatico ragazzo che gironzola, fatemi sentire questo, cos'è che ha detto? Io non l'ho sentito, ho sentito solamente un po' di registrazione. Della Valle ieri sera dov'era? Là in onda, sì. Da onda Paragone, certo, no. Dall'amico Paragone, sai che sono molto amici, no? Sono molto amici, vanno in barca questo insieme. Questo non lo so io. Vanno in barca insieme, te lo dico, vanno in barca insieme. Non c'è niente di male, dica ma in barca con Totorrina, Paragone. No, ma questo ma non lo sapevo, Valle, non lo so. Cioè, non è Totorrina. Mi è, ma mi è indifferente con chi va in barca, cioè, l'uno e l'altro. Ah, no, ma è così, dai, dai, vai, Della Valle. Non basta dare una pacca sulla spalla ad Obama, fischiettare con la Merkel e andare sotto braccio ad Hollande. Bisogna che queste persone ci prendano sul serio e non ci considerino dei simpatici ragazzi che gironzolano qua e là senza concludere quasi nulla. Abbiamo bisogno che la gente risolva i problemi veri di questo paese. Ma che banalità, lo posso dire, abbiamo bisogno di gente che risolve i problemi veri, ma certo, ma non c'è dubbio, cioè, poi non è che adesso si può dire tutto di Renzi, per carità, l'abbiamo detto spesso, inconcludente, non è che gironzola qua e là con a braccetto con la Merkel, poi magari conclude poco, è vero, cioè... No, in apparenza, Della Valle, guarda, non so se farà il partito, non mi interessa. Ma è bello che Berlusconi ha detto c'è bisogno di era nuova. Imprenditore. No, ma Berlusconi, ma chi se ne frega? Utili. Beh, no, no. Ancora questa stronzata degli utili. Ma che stronzata? Ha dato i suoi utili che ha guadagnato in più, li ha distribuiti ai lavoratori della sua azienda. Ma non è vero. Ma sì, ma sarà vero, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? È importante. Non è necessario, in un periodo di crisi loro hanno avuto, hanno guadagnato tanto e hanno distribuito. Adesso non c'entra questo. È importante che tu lo dica, perché se ti vuoi slinguare anche Della Valle, no, vabbè, io, cioè, a parte che non ho mai ricevuto la slinguatina pure a Della Valle, andiamo con la ripassatina Della Valle, vai. Col cazzo, perché non ho mai ricevuto andiamo né con un la ripassatina paio di Della scarpe. Valle, ho detto una cosa che è uscita su tutti i giornali, ma sembri cosa, cioè, ma sembri Mastella con Della Valle, ma dai, no, tanto io non l'ho mai conosciuto né incontrato, ho detto una cosa che c'è su tutti i giornali, cioè uno dei pochi imprenditori che ha ridistribuito gli utili ai suoi operai. Comunque c'è Della Valle che dice anche, a me fanno impazzire questi qua, ora Della Valle che ascolta la gente e conosce i problemi. Ora io dico tutto è possibile, tutto è possibile, ma ascolta la gente, ma che vuol dire poi ascoltare la gente? Non vuol dire, vogliamo ma dire tu una ce l'hai volta con Della Valle tutte... a prescindere, no, ma non va ce l'ho bene con Della Valle, quello, assolutamente figuriamoci Della Valle, ma non ce l'ho fatto con Della Valle, io analizzo le frasi che ascolto durante la giornata. Allora Della Valle che dice ascolto la gente per strada e conosco i problemi è una cazzata, perché la frase stessa ascolto la gente per strada è una minchiata, la vogliamo dire o no? Parlare neanche una lingua che rassomiglia al politichese, però io ascolto la gente per strada, vedo tante persone, vivo in un paese e capisco i veri problemi che loro hanno e che nessuno fino ad oggi glieli ha risolti. Allora abbiamo già un collegamento pronto dall'estero, un collegamento pronto dall'estero, però la frase del giorno, caro Parenzo, è un'altra. Beh, devo dire che vorrei fare un monumento a questa ragazza che non ho mai conosciuto e che è stata intercettata, poi si può discutere a lungo sulle intercettazioni, sul modo in cui vengono fatte, sui magistrati, la persecuzione a Berlusconi, però questa ragazza si chiama Barbara Guerra, beh, sì, amico mio, lo sai già che nel cosa cognome, ha detto? Già nel cognome. Barbara Guerra è veramente una persona da battaglia, da guerra, sai che cosa ha detto a un certo punto nell'intercettazione? Beh, è una cosa spettacolare, spettacolare. Domani, rivolta ad un'altra di queste oggettine, domani butto giù il cancello di Arcore, comunque vado a rubargli una macchina al vecchio, rivolto a Berlusconi. Beh, ti giuro, così, ma io l'ho conosciuta la signora Guerra e ti posso assicurare che gente che frequenta, ma non ho capito, ma perché io frequento la gente normale, la gente, tu che... proprio la gente normale, è normale, Barbara Guerra, Vabbè, non è normale Barbara Guerra. Gente, per normale me, Barbara Guerra. Ma per me adesso è una gran figa, Barbara. Questo parte è il una tuo grafica mondo, è il fantastico mondo di Cruciani. È normale, vabbè, è la gente normale Barbara Guerra. Assolutamente, più normale Barbara Guerra di Della Valle, sicuro. Ma non ci va, non ho mai detto che Della Valle è gente normale, ma che tu mi dica che la Barbara Guerra è gente normale. Comunque, gente la frase normale, è fantastica. La frase fantastica è questa: domani butto giù il cancello di Arcole, comunque vado a rubargli una macchina al vecchio. Ho ma appena richiamato l'ambiente. Arcole, mi sono incazzata come una bestia. E tutto questo ricatto tenevano Berlusconi un po' per le palle, o pensavano di tenerlo per le palle. A un certo punto lui avrebbe detto: anche se posso, le butto tutte per strada. Poi in realtà non le ha buttate per strada, anzi, le ha rifornite di denaro, Allora, invece di andare in Grecia a aiutare gli uomini della sinistra, perché ci sarà una specie di migrazione ridicola, secondo me, da parte di uomini di sinistra verso Atene nel fine settimana, la signora invece Alba Parietti si trova a Ibiza. Buonasera, buonasera. Buongiorno, buonasera. Io ho sentito tutto quello che stavate dicendo. Guarda, ieri sera Cruciani, non so se lo posso dire. No, no, lo devi dire. Lo devi dire. È venuto a casa mia. Io vi voglio dire, a casa mia forse c'era un po' di alcol, ma droga. Incazzato che sta dicendo. Io ho il terrore che veramente. Non mi sono drogato, non mi hai messo niente. Anche lui. La parabola che ti è successo, Crociani? Ma che stai a dire? Che Barbara aspetta, Guerra aspetta. Anche alle feste. Allora, aspetta, specifichiamo fine, una cosa. Sono andato. No, ma io, mica mi ricordo. Sono andato. Quello che frequenta aspetta, le cose. Ma perché non ho capito? Guarda, scusa, perché non sei venuto anche tu? Io vi avevo invitato tutti e due. Lo so, tesoro, mi hai invitato, ma io stavo a Roma e non volevo abbandonare la famiglia. Deve fare il badante. Aspetta, il badante. Un attimo solo, Alba. La cosa sì, è molto semplice. Sono andato ieri sera, è vero, alla festa di compleanno di Barbara. Sì, di Barbara. Chi c'era? Insomma, c'era qualche... No, guarda, per favore. Di Alba Parietti. No, ti avevo confuso con Barbara Guerra, scusami, ma non è la stessa cosa. Cerca di non fare, no, non per Alba, con tutto il... Veramente, se muoio la macchina al vecchio non te l'ho ancora rubata per il momento. Però, insomma, non vorrei... Allora, devo dire la verità, festa di compleanno meravigliosa in questa casa stupenda, Basilio, Milano 3, dove ho fatto un piccolo sondaggio con le camere, piscina enorme, credo che una decina di profughi e di immigrati ci entrino tranquillamente. Ma perché devi dire? Oh Dio, ricomincia con i discorsi. No, aspetta, io dico che una decina di immigrati, anche in piscina, là, ai bordi della piscina, allora, ascolta, possono stare tranquillamente in questa casa meravigliosa. Giuseppe, se sei venuto a casa mia per fare la festa di compleanno, bene, se sei venuto per rompere i coglioni e fare il delatore, è un altro discorso. Ma delatore, allora, che delatore? Ho detto una casa bellissima. Io non invito la gente perché poi il giorno dopo mi sputtani, ma detto questo... Ma che sputtani? Che ti ho detto? Giuseppino, io caro, non ti ho detto niente, tesoro, dai. Ti volevo dire questo, hai detto una serie di cazzate anche su Della Valle che veramente fanno accaponare la pelle. Ma allora, innanzitutto, a me Della Valle, personalmente, poi dopodiché è chiaro che un imprenditore a quei livelli lì non è che può avere la... totale dell'uomo di strada, però c'è chi è in grado di farlo. Anche Pietro Barilla era un grande imprenditore, certo, ma era una persona che si occupava. Vabbè, allora, e aveva allora un rapporto Olivetti con gli operai. E allora a me non sembra che poi tutte queste cazzate della Valle le abbia dette, anzi no, ma io non ho detto che non c'è il bisogno con Marchion, con la Merkel eccetera eccetera, francamente voglio dire, ha fatto delle belle cose per gli americani. Ma perché non sei con i compagni in Grecia? La politica italiana, visto che rompiamo le scatole dalla mattina alla sera con gli immigrati, ma bisogna che la politica italiana si occupi degli italiani, non di fare i favori agli americani, ai tedeschi eccetera eccetera, perché se no voglio dire veramente poi cioè, non mi dico di ridursi come la Grecia, però insomma voglio dire, aspetta Alba che devo dare, aspetta che devo dare il traffico e poi torno, aspetta. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Ti ispirai il quadro di Picasso? Ah, questa era la frase di Barbara Guerra rivolta a Ruby Rubacuori in un'intervista, chiamiamola così, in un'incursione radiofonica della Zanzara di qualche tempo fa, eh. Ma avete capito benissimo il significato di questa frase, inutile che ve lo spiego. Siamo in collegamento invece che con la Grecia, perché non è andata insieme ai compagni Vendola eccetera, ma a Ibiza con Alba Parietti. Alba, uno non è che ti posso anche prendere in giro, accetta questa cosa, ti no, voglio ma bene, lo sai. Ma io se ho una casa qua, poi Ibiza, vedi, è il concetto sbagliato. Ma che fai stasera, i massaggini, Ibiza. Che fai? I massaggini, cazzo. Che fai? Massaggini, ma guarda che Ibiza ha una parte di campagna meravigliosa, sì. Dove ci sono gli hippie, ci sono, era il posto degli hippie da 30 volta, anni, ci vengono da 35 anni, non è che è come dire la Sardegna, non è che la Sardegna sia solamente vipperia, no, c'è certo. Gente che va in questi posti perché li ama. Ma perché non va in Grecia? Bellissimo. Perché non va in Grecia? Con i compagni? Mi piacerebbe molto andare in Grecia, ma non ho case in Grecia, e anzi voglio dire, mi piacerebbe molto conoscerla, combattere. Un posto, secondo me, meraviglioso, che combattere per l'indipendenza greca contro questa banca centrale europea, contro questi tiranni europei. Dovresti stare lì insieme insomma, a adesso non vorrei estendere il discorso anche alla politica estera. No, non estendiamo il discorso alla politica estera. Io trovo solo un gran figo il ministro delle finanze Varoufakis. Varoufakis, no, andresti in moto con Varoufakis. Quello pelato, come si chiama? Varoufakis. Yannis Varoufakis. Ma in coro, ve lo siete studiato il nemico, Varoufakis. Guardate quelli fighi. Fate parte degli uomini che guardano gli uomini. No, ma assomiglia a Checco Zalone più che altro, ma è simpatico. Ci usciresti. Checco Zalone. Assomiglia a Checco, se lo guardi bene con quella pelata interessante, è bene. Assomiglia a Checco Zalone veramente, va anche bene. Politicamente. In genere gli uomini come voi, quando uno dice che uno è uno strafigo, dite subito che gay, stavolta avete detto che stai dicendo che Zalone è brutto, quindi siete già migliorati, cioè stai dicendo bravi. Che Checco Zalone è brutto, questo più che altro è la notizia. No, Alba Parietti, sto dicendo che l'altro Zalone è più figo. Io sono assomiglia a Franco Trentalanci in realtà, a Varoufakis, che è un pornostar italiano. Insomma, Franco Trentalanci ha il suo perché, voglio dire. Adesso senti, ma certo che da passare dai discorsi politici al pecoreccio ci vuole un secondo. Ma noi siamo specialisti. Entrare da osteria numero 7, da osteria numero 0 alla politica, per Senti, voi è un secondo. Beh, anche per te. Scusami Alba, ma la signora Cucinotta, la conosce la signora Cucinotta? Qualche giorno certo, fa sì. Ha detto che lo Stato deve pensare prima alle donne, dopo ai rom e ai profughi. Proprio così. Guarda, non ti sto cambiando nulla. È stata anche molto criticata. Vedo che stai zitta perché non te l'aspettavo. Partiamo da un presupposto. Io ho un grande rispetto di lei, è una persona molto per bene, una signora. Però ho detto una calzata. Però francamente, insomma, io gli esseri umani non si distinguono in uomini o donne. Io tra l'altro, per quanto abbia sempre fatto le battaglie contro l'omofobia e contro e penso che le donne siano ancora trattate, basta vedere come gli parli tu poi, Giuseppe, le donne. Come parlo? Come dici, sia una misoginia latente. Ma quale misoginia? Ma di che stai parlando? Ma che dici? Io trovo che il modo migliore sia trattare gli uomini con sufficienza, cioè nel senso che bisognerebbe perché non hai il coraggio di dire che la tua amica Cucinotta ha detto una puttanata, che lo Stato deve pensare ma non prima. È carino che tu voglia farmi dire tu che e poi domani escono le agenzie e io dico che la Cucinotta la stiamo puttanata. Non condivido per il semplice fatto che non le donne condivido. Sicuramente hanno molti problemi, ma perché abbiamo ma non c'entra niente con i rom ancora... Non c'entra niente no, con non i rom. Sì, è come dire. No, non c'entra assolutamente niente con i rom, francamente. Non vedo la fine. Senti, la ma stai leggendo questa cosa delle oggettine? Che Berlusconi ha rifocillato con circa 10 milioni di euro. 10 milioni di euro alle oggettine sono esattamente quelle che tu hai rifiutato, cioè 9 milioni. Vabbè, ma io vorrei sapere. Io, però, non facciamo lo stesso mestiere. Io sono per la separazione delle carriere, come dice Vittorio Sgarbi. Nel senso che ognuno faccia il suo lavoro, se una voglia di fare, diciamo tra virgolette, di prostituirti, piuttosto che, non dico delle oggettine, dico in generale, delle oggettine, io trovo dicendo, che fa bene a farlo, se gli viene voglia di farlo, se lo fa senza schiavitù, ma se io faccio un altro mestiere, a me sono stati offerti per fare un lavoro che era la televisione. Queste signore se pensano di farsi, cioè, è un altro lavoro. probabilmente, per mentire, probabilmente le hanno accettati, forse, dicono i magistrati, per mentire, per raccontare stupidaggini, per non dire la verità sulle, sulle serate di Arcore. Vabbè, insomma, è... però io non che credo dice... che ci sia, però siamo sempre lì. Secondo te, scusa, adesso ti faccio una domanda, mettiamo, e certo, diamo quasi per scontato che sia così, secondo te invece quanti uomini ci sono stati che hanno fatto i ruffiani, i portatori di donne, eccetera eccetera, i metaculo per avere magari appalti, per entrare nelle grazie, eccetera sì, eccetera, che non vengono mai, perché sempre solo le donne? Il mondo è pieno di papponi, di gente che vive alle spalle delle donne e di quel tipo lì, che poi sono chiaramente un po', anche un po' cretine. Comunque ti volevo segnalare, ti volevo segnalare, perché andiamo alto e basso e poi chiudiamo, che secondo un sondaggio le donne si masturbano mediamente 5 volte al mese. Secondo me è troppo poco. Ciao Alba, ti saluto da Ibiza, 5 mi raccomando. Volte al mese solamente, perché non solamente... conoscono te, perché non le donne, te, le donne 5 volte al mese è pochissimo. Io cosa sono? Un uomo, un portuale. Tu 5 volte al mese è poco, no? È poco, mi sembra, no? Beh, ti ho detto, perché non conoscono te. Non conoscono te, te io. Ma dai, su, ma queste ironie non... A dopo, dai. Che cosa volete dirvi? Ditemi, amore. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. A parte che anch'io sono per l'eliminazione immediata dei parenti. Allora ragazzi, io vorrei sapere chi cazzo è questo Franco Ziliani. Franco Ziliani, che è un critico di vini, cioè uno che fa recensioni di vini, il quale scrive, anzi mi minaccia quasi, è un fancazzista, Cruciani è un fancazzista, si è permesso di citarmi e di prendermi per i fondelli. Vado fuori dagli studi, oddio che paura, e gli farò una sorpresina, cialtrone avvisato, mezzo salvato. Caro Ziliani, guarda che ci hanno provato anche una serie numerosissima di persone. Abbiamo le nostre difese, abbiamo già comunicato i tuoi riferimenti alla Digos di Milano. Non ti preoccupare, abbiamo già comunicato tutti i numeri di telefono alla Digos di Milano, non ti preoccupare. Comunque, stavo leggendo nell'intervallo quello che ha detto, beh, amico mio, il professor Luttuak sulla Grecia e sull'Isis. Lo vorrei abbracciare fortissimo. Lo sai che io avrei vorrei francamente, aspetta, ancora non lo sai quello che ha detto, aspetta. No, io vorrei avere quasi una storia erotica con Luttuak. Cioè, mi è venuto in mente che probabilmente per Luttuak potrei diventare frocio, ti giuro. Potrei avere una storia erotica con il professor Edward Luttuak. Allora, senti che cosa dice sull'Isis. I musulmani odiano l'Isis, perché tu sai che tutti i musulmani moderati, anche quelli italiani, dicono peste e corna dell'Isis. No, non è in vero Islam, cioè, odiano l'Isis perché mostra al mondo il vero volto dell'Islam. Dimmi te se non è una frase meravigliosa, ed è anche un po' vera. E sulla Grecia ancora più spettacolare. I greci voteranno sì perché vogliono continuare a non fare un cazzo, vogliono continuare a non lavorare, in realtà non fare un cazzo è una mia traduzione, un po' volgare. Comunque sì, qua ha detto praticamente così. Voteranno sì al referendum perché vogliono continuare a non fare nulla e a sfruttare i fottuti europei, a continuare a prendere i sussidi, i soldi europei. Diciamo la verità, traduciamo questa vicenda greca alla sua essenza. A me mi stanno sulle palle quelli che dicono viva la Grecia, perché deve mostrare all'Europa di avere le palle. Ma cioè, non eri un sostenitore del referendum tu? Ma sì, ma che c'entra che sono sostenitore del referendum? Ma è un'altra cosa. Questa è la partita. I greci, prima di parlare, devono restituirci tutti i quattrini che gli abbiamo dato. Ma non è fino a pochi anni fa. Aspetta, oggi. Fino a pochi anni fa, i greci andavano in pensione a 40 anni. Sì, è vero. C'erano, non so, il 10% della popolazione che è impiegata nello Stato, una corruzione che è peggio di quella italiana. Di cosa parliamo? Vabbè, voglio farti ascoltare questa signora Fatima, tanto per attirare qualche, no? per far venire il mal di pancia a qualcuno, questa qua che si è convertita, questa italiana, che è stata, credo, intercettata, bravissimo, esatto, italiana, che si è convertita all'Islam, e sì, poi è andata, si è, matta, si è fatta matta, non c'entra l'Islam, qui è una spostata, è quello qui che dice Lutwak, anche questo è il volto dell'Islam, anche questo è... perché non esistono i cristiani che tagliano le teste, scusami, cioè, c'erano nel passato, adesso non ci sono. Perché non ci sono più? Le cose si sono evolute, ma no? Questi sono rimasti indietro. Nel caso di Fatima siamo di fronte a un caso clinico, no? Ma sentiamo, non Fatima, un caso religioso. Sentiamo un po' di audio della signora Fatima. Questa gente che si permette di dire no, il jihad non c'è, cosa ha fatto figlia che è andata lì a fare la hijra, a'udhu billahi minash shaitani rajim, questa è gente che deve essere tagliata la testa. Siamo musulmani d'Italia, noi siamo i musulmani del Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siamo i musulmani che siamo pronti al jihad, più stabili. Il jihad è l'azione più grande, più meritoria per Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Non c'è subhanallah, tu sei chiamato all'Islam, sei chiamato alla hijra. Tu comandi in casa, non mamma, wallahi l'azim, tu comandi. Se tu stasera decidi che non si mangia, wallahi nessuno si mangia, ok? Perché tu decidi, ok? Tu sei l'uomo di casa, tu hai deciso per la hijra, e allora prendi mamma per i capelli e vieni qui a fare la hijra. Vabbè, prima di sentire un po' di ascoltatori, Vittorio Feltri, che è stato proposto sindaco di Milano da Maria Stella Gelmini, coordinatrice di Forza Italia in Lombardia, qualche giorno fa ci rispose in questo modo. Cioè, si guadagna troppo poco. Lo stipendio da sindaco, che credo si aggiri intorno ai 160-170 mila euro all'anno, è uno stipendio da miserabili. E poi tra l'altro se guadagna pochissimo a far sindaco di Milano, dico io, cioè, questo poi... è drammatico, come tu sai io non me lo potrei permettere. Cioè guadagna tipo 150 mila euro l'anno, una cosa del genere, il sindaco di Milano, roba, credo. No, roba da miserabile. Allora andiamo ad Agrigento da Francesco, vai. Pronto? Dimmi. Allora io volevo dire, fondamentalmente la penso come te sui greci, perché hanno vissuto hanno avuto tantissimi benefici, come hai detto tu. E poi volevo dire a Parenzo che mangiare coccodrillo è anche una cioè fa parte della cultura del popolo dove si va. Tu non puoi, tu vai in Cina, mangi il cane, vai e mangi le cavallette. Posso fare anche, io giro molto, come lei non lo sa, no, ma io adoro fare viaggi e girare. Non è che però se vado in Cina e spero di andarci presto mangio il cane. No, no, no, ma ho saputo tra l'altro che la carne di coccodrillo è una carne molto proteica, molto non... buona, molto, molto leggera. La mangerò sicuramente qui allo stand dello Zimbabwe. E anzi, io credo che quei genitori vegani che hanno ridotto il bambino in condizioni miserabili, queste sì miserabili, dovrebbero dare carne di coccodrillo, perché è molto ricca di vitamine e farebbe molto bene a questo bambino che era chiaramente denutrito da due pazzi sconsiderati. Non c'è bisogno di dare da il coccodrillo, basta dare un po' di manzo, un Vabbè, po' di vitello. A parte questo, Francesco, che vuoi? Levarli a quella famiglia là. Eh? Devono allevarli i figli completamente, perché non sono capaci di allevarli adesso. Sì, chiaramente se l'hanno denutrito fino a questo punto sarebbe il caso, insomma, di fare qualche pensiero. I sociali dovrebbero intervenire a tal fine. Emilio, Reggio Emilia, vai. Oh, Giuseppe, buonasera. No, io vai. Divento pazzo esaurito solo a sentire quella pazza di prima che si è convertita all'Islam e dice tutte quelle cazzate bestiali che sono. Io sono intervenuto perché l'altro giorno ho sentito quel signore, che non mi ricordo cosa, come si chiama, di Milano, che ha detto che devono essere costruite, devono costruire 10 moschee a Milano perché ci sono 100 e passa islamici. Sì. Ma siamo esauriti. Ma se qualcuno di noi cristiano si azzarda a dire una cosa del genere, nel loro paese lo fucilano, ancora lo bruciano. No, ma è un ragionamento corretto. Ma non è un ragionamento corretto, sai, Emilio, dai, rispondi a Parenzo, Emilio. No, a ma non c'è da rispondere, io la penso diversamente, ma non è corretto dire siccome loro sono intolleranti, lo dobbiamo essere anche noi. È una follia. Ma cosa? E negare i valori dell'Occidente, cioè l'Occidente. Ma si quali valori? Sulle... Ma perché si i nostri valori vengono riconosciuti all'estero? Sulla democrazia, quelle sono teocrazie, quindi non è che noi dobbiamo inseguire chi è peggio di noi, dobbiamo fare meglio teoricamente, cosa che qua, spesso Emilio facciamo. È incazzato perché dice ma che mentre in alcuni paesi ma non è un possono... argomento, certo, ma non è un argomento. Pazzo, esaurito. Dici, scusa, siccome quello è uno stronzo, faccio lo stronzo anch'io, ma non funziona così. Diventi pazzo esaurito. Ma divento pazzo perché vengono qui e cercano di fare e di imporre tutte le loro ideologie. Ma non impongono niente. Ma come no? Ma vedi che tutti seguono la loro religione, che deve essere compatibile con i dettami del nostro sistema, per cui qui da noi, ad esempio, non si può fare la poligamia, cosa che si fa in pochissimi di quei paesi. Peraltro ci sono delle norme da rispettare e questo loro lo fanno. Dunque, perché non ho mai visto nessun islamico arrestato. No, ma Parenzo dipinge un Islam fantastico, un Islam così ideale, un Islam, l'Islam vero è quello che sentiamo ogni giorno, vivono dalle un cose milione che vengono di musulmani del nostro paese. Bravo, non c'è mai stato Giuseppe, un solo problema, bravo, però. Giuseppe. Vai, bravo, Marco Pesaro, vai, Marco Pesaro. Ciao. Io volevo intervenire in merito al discorso che facevate ieri sulla castrazione chimica. Allora, io premetto che sono a favore, però Parenzo mi sembrava un po' in contraddizione ultimamente, perché? Lui diceva appunto che si ritiene favorevole alla castrazione chimica. Sì. Io dico una cosa, se uno ruba e io gli propongo di tagliare un braccio, è una cosa... Paradosso divertente, ma non c'entra niente. Eh no, perché io vado a intervenire, io con la castrazione chimica il principio chimica è diverso, sì, certo, ma il principio è diverso. L'organo in cui ha fatto l'atto. Io non penso di... che il ladro sia una persona malata, penso che sia una persona da punire. Penso che lo stupratore sia sia da punire sia da curare, perché lo reputo una persona malata. E quindi come c'è il ladro, non è uno malato? Vabbè, ladro, è un po' diverso, dai Carlo. Un po' diverso, no, Carlo, però si può sostenere Marco. Qualunque cosa. Io la penso così, per carità. Il ladro non è un malato, il ladro è un ladro e va punito. È un po' diverso, è un po' diverso, dai. Diciamo che comunque siamo favorevoli alla legge del taglione con la castrazione. Non è una legge chimica. Del taglione, c'è negli Stati Uniti, c'è in Inghilterra, c'è in Francia. Non lo metto in dubbio. È un provvedimento medico. Io sono favorevole. Bisogna ammettere che andiamo a intervenire proprio su quella parte, se vogliamo così dire, che ha commesso l'atto che ti spinge a violentare comunque, una ragazza. Da questo punto di vista la teoria di Zamparini, presidente del Palermo, è molto semplice: tagliare i piselli e scompaiono gli stupratori. Sentiamo Zampa, tagliare i piselli e così all'improvviso scompaiono gli stupratori. Tagliare i piselli e scompaiono gli stupratori. Tagliare i piselli e scompaiono gli stupratori. Tagliare i piselli e scompaiono gli stupratori. Quando mio padre emigrò tanti anni fa in Sud America, quella volta un ladro gli tagliavano la mano e mi diceva che potevano lasciare il portafoglio in mezzo alla strada che non lo toccava nessuno. Per cui se tagliassero un paio di piselli, probabilmente sparirebbero anche gli stupratori. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. È talmente degradato che nelle intercettazioni che escono fuori sulla vicenda Ruby c'è una simpatica signorina che si chiama Melania Tumini, la quale dice, una di queste oggettine, non so con quale ruolo, che dice: ho visto alcune ragazze che toccavano i genitali di Berlusconi. Adesso che vuol dire toccare i genitali di Berlusconi? Cioè, tecnicamente che vuol dire? Che grattavano, gli grattavano le palle? Che facevano? Non lo so. Cioè, Parenzo, secondo te che significa toccavano i genitali di Berlusconi? Non riesco neanche a immaginare la scena, voglio dire, siamo... Ma perché non devi immaginare la scena? No, non credo, perché non invece riesco... quando uno tocca le palle a te va bene immaginare la scena, non ho capito. Cioè, nessuno chiede che l'ascoltatore della radio si immagini questa scena. Sì, invece cioè, stanno immaginando, qui... li devono sempre immaginare. Benissimo. Dunque, no, ma qui stiamo immaginate parlando questa, di alcune ragazze che toccano le palle i genitali di Berlusconi, magari grattano un po' sotto, c'è il sultano di hardcore che sta lì in questa sedia, bellissima, le bunga bunga, è stupendo, io lo amo per questo Berlusconi. Loro certo era incompatibile un po' con il ruolo di Presidente del Consiglio, questo è vero, decisamente incompatibile, però è una cosa per cui va, gli va fatto un monumento, per questa cosa qui, va fatto un monumento. Poi certo si è fatto troppo ricattare, ha pagato troppi soldi, ma deve essere possibile uno da 7 milioni a rubi rubi cuori, 7 milioni, per nulla poi, perché i guai non sono finiti, adesso, adesso un altro guaio, no? No, una notizia invece farà incazzare molti ascoltatori e forse farà incazzare anche il mitologico Donato da Varese. Perché è una notizia che fa incazzare Donato da Varese? Per questo motivo qua, senti questa cosa. Ritorna in edicola l'Unità, e lo sappiamo, l'Unità sì, è tornata in edicola. Io potrei dire chi se ne frega, però siccome apre un giornale che dà lavoro, come una qualsiasi impresa, piccolo o grande che sia, va bene. Però, aspetta. Senza soldi pubblici, peraltro. No, ma quello ci mancherebbe pure. Aspetta. Beh, no, però questo è interessante. No, aspetta, però. Senza soldi pubblici, dici tu. No, adesso ti dico. Allora, tra il 90 e il 2013, i signori dell'Unità, come altri giornali, peraltro, hanno incassato 124 milioni di euro. Cioè, tra il 90 e il 2013, tu, anche tu, Parenzo, hai contribuito all'Unità per 124 fottutissimi milioni di euro. Sì, ma come altri giornali. Come per altri come giornali, Libero, ho detto. Come... Aspetta, siccome ci sono degli arretrati, ci sono dei crediti, 176 milioni, 176 milioni. Sai chi paga? Per una legge che hanno fatto Stato. I contribuenti, sì, italiani, certo. Ma sì, certo, un cazzo. Cioè, ma cosa sì, certo? Ma perché dobbiamo pagare pure i debiti pregressi? Chi si vuole prendere questo giornale si accolla i debiti pregressi. Perché ce li dobbiamo accollare noi, scusami? Una legge sbagliata che hanno fatto, certo. Lo dici con una voce un po' così, un po'... No, ma non sono... Certo, è uno scandalo, ma non mi appassiona molto questa non roba qua. Non ti appassiona, certo, non ti appassiona. Sai quando perché? Perché quando si tratta dei quattrini non ti appassiona. Ma potrei dire per anche lo stesso per Libero, potrei dire per il Foglio, ad esempio, ma che una volta lascia era... perdere i soldi che hanno dato, che è uno scandalo già. Cioè, i debiti, in quel sistema debiti, là c'era una legge milioni. Sbagliata che finanziava l'editoria, diciamo, di partito. 176 milioni, 176 milioni di debiti che ci dobbiamo accollare noi. Ma dai, ragazzi, su. Vai, facciamo un po' di ascoltatori. Umberto, Monza, 800-24-0024, Umberto. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Vai. Volevo fare un intervento circa quello che hai detto poco fa di Feltri, la conversazione che avete avuto qualche giorno fa. Sostanzialmente volevo dire che... Ma mi sembra un po' strano che lui possa dare un giudizio del genere circa uno stipendio di un sindaco, sostanzialmente un miserabile. Chissà quanti miserabili leggono i suoi articoli, hanno letto i suoi articoli e l'hanno mantenuto. Io come tale da oggi potrei decidere di non leggerlo più solo per una considerazione del genere. E poco fa anche tu hai fatto presente circa i... Sì, però cerca di parlare più chiaro perché non si sente una mazza. Avvicina la bocca al microfono. Sì, mi senti bene? Che... Niente, sì, sostanzialmente... Sì. Può anche essere riconnesso a quello che dicevi poco fa, circa quello che viene dato dallo Stato ai giornali per rimanere in piedi. No, vabbè, è chiaro che l'affermazione è forte, uno dice uno stipendio da miserabili rispetto a quello che guadagna lui. Lui dice io guadagno tanto a fare giornalista, beato lui, guadagna sicuramente una cifra molto cospicua, una volta l'ha pure detto, sicuramente più di mezzo milione di euro, e se dovesse fare il sindaco dovrebbe rinunciare a questa cifra per fare un qualcosa che non gli va di fare in più pagata meno, chi glielo fa fare? Poi lo stipendio da miserabile è il rapporto. Però dice questo ascoltatore dice giustamente che cioè, ci sono un sacco di miserabili in giro. Appunto. Secondo questo criterio ci sono un sacco di miserabili in giro. Vabbè, ma chi si vuole incazzare? Io sono uno di quei miserabili, peraltro, però chi se ne frega. Vabbè, ma ho capito, lo stipendio da miserabile. Cioè, dice di cattivo gusto che in un momento come questo, di crisi economica, si considerino 140-150 mila euro una cosa da miserabile. Questo dice mi pare, Antonella Ravenna, vai, Antonella, vai. Buonasera Giuseppe. Dimmi. Buonasera Parenzo. Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda questa ragazza italiana convertita all'Islam. Io sto leggendo gli articoli questa settimana sui giornali ed è una cosa che mi ha veramente turbato, perché non riesco a capire come possa una ragazza italiana, studiosa, perché comunque frequentava l'università di Milano, biotecnologia, ha frequentato un liceo scientifico, cioè che questa qui avveri completamente il cervello. Ma guarda che frequentare l'università non è che sia una vabbè, sicurezza. Però in ogni caso apre la mente, in Italia sono tutti laureati, vanno tutti all'università, non è ma che sia no, una sicurezza. Però nelle loro, cioè allora questo è diverso, perché questa ragazza si è istruita ma da mente, noi. La mente umana. Ha ragione, infatti allora. Questo mi sta sconvolgendo e mi toglie un po' di riferimenti che io mi ero fatta nella mia addirittura, vita. Beh, un po' sì, perché secondo me attraverso la scuola, secondo me le persone dovrebbero anche capire fino beh, a che ha ragione. Punto arriva capito, veramente. Ha ragione, perché fa paura, cioè Antone, fa paura questa roba qua. Ma non è l'Islam, non solo. Non è mai l'Islam. Ma no, certo che è l'Islam radicale, l'ISIS, certo che è un problema, Al Qaeda, certo che è un problema. Però la cosa che fa paura a sta signora, come in Francia, è che questa qui, tra l'altro, era italiana, convertita, impazzita, è andata lì. Cioè, questo fa paura, che è quella della porta accanto, che è un'italiana. È questa roba qui che fa paura, non soltanto che è islamica. Quanti islamici sono poi, in Italia? Antonella, è un milione. Poi? Mica è un milione di potenziali terroristi. Poi, Antonella. Quindi questa cosa volevo solo portare questo mio stato d'animo. Va bene, grazie. Mocase Roma, che è Mocase? Che nome è Mocase? Io sono Mutase. Mutase. Sì, vabbè. Mutase. Buonasera. Sì. Allora? No, senza allora. Posso parlare con il signor Parenzo, gentilmente? Eccomi. Parenzo sta qua, non ti preoccupare. Eccomi. Buonasera, signor Parenzo. Buonasera. Qui non siamo al salotto. Lo stimo tanto, lei mi rotante. Il Salam suo collega, aleikum. Che è proprio... Grazie, che è proprio un ignorante in materia. Lo allora, sì. Io sono un tutto. E Crociano. Crociani, Giuseppe Crociani. Allora, ascolta, le moschee sono il luogo di culto per quanto riguarda certo. Tutti le cittadini. Io non ho detto che non bisogna farle, ho detto che mi sembra troppo farne 10 a Milano. Ma quasi solo questo, troppo, ma che ne sai quante no, amico mio, ma se vuoi costruire 10 milioni. Ma tanto non ti sarà consentito fare 10 moschee a Milano. Al limite te ne faranno una. Ma guarda, la nostra puoi fare quello che ti pare, puoi gridare alla libertà. 10 moschee non italiano, le faranno a Milano. Non le faranno. Lo Stato italiano non ha messo una lira, abbiamo fatto noi la colletta, l'abbiamo pagata noi quelle che state a Roma. Per di più un'altra bolletta, cosa l'hanno fatta loro la moschea di Roma, certo, con i soldi loro. Tutti l'ambasciata, i consolati, l'ambasciata l'hanno pagato loro. Ma ci manca pure che la paghiamo noi. Ci manca pure che la paghiamo allora, noi la moschea. Ieri, so, cioè, ieri lei pure la moschea. Il senatore quelli della Lega avete detto un sacco di stronzate. Ma perché non ho capito, secondo te prima, aspetta, stai zitto un attimo, prima fermo. Ti devi informare sì, ma non ho capito perché secondo te fermo un attimo, sì, fermo un attimo. Beh, vediamo, secondo te lo Stato deve pagare la moschea, la costruzione no, della moschea? No, lo Stato non deve pagare la moschea, però ad esempio può dare a canone agevolato. Ma io questo sì o no? Può dare è più articolato, può dare a canone agevolato alcuni luoghi dove poter pregare, perché a canone agevolato. Sì. Sì, ma che vuol dire dirla come ti pare? Ma se uno, vuol dire, ti ma faccio se uno... un esempio molto pratico, ad esempio. Vuol dire che se tu hai ad esempio un edificio pubblico dismesso e glielo fai rimettere sì. A posto, quell'edificio vabbè, pubblico. No, ma maestro, stai dicendo quello che è, stai argomentando. Va bene, sì, lo Stato può accollarsi a canone agevolato la concessione di strutture pubbliche decadenti, vengono rimesse a posto da loro e gli fai pagare meno affitto di quello che faresti pagare a canone di mercato. È una sintesi difficile da capire? No, è abominevole? È così Mocase? Complicato? No. Mocase, come si chiama Mocase? Sì, Mocase, sì. La sento, mi dica. Allora no, sei tu che hai chiamato, mica io. Sì, allora, lei prima di dire qualsiasi cosa, lei insieme il senatore e quello della Lega non ci dovete documentarsi prima. Fate meno un po' di ignorante. Prima di attaccare le persone, si deve documentarsi, io non ho detto, deve lavorare. Non ho detto niente. Del signor Parenzo, imparate del signor Parenzo. Di signor è una Parenzo. Persona colta, hai capito? Colta. E che me sì, frega me. È colta, è una persona educata. Non educato, è come lei. Educato, sicuramente è più educato di me. Pasquale da Frosinone, vai, Pasquale. Ciao Crociani. Dimmi. Senti Crociani, io premetto, non ho fatto neanche la terza media e faccio il camionista. Sì. Volevo intervenire per quanto riguarda, se mi dai un minuto di ascolto e poi la tua risposta, io l'ascolto per radio e da quello che tu il giudizio che tu mi dai, io giudicherò se devo continuare ad ascoltare la tua trasmissione. Premetto che sono d'accordo al 90% su tutti gli argomenti e come rispondi. Però Pasquale, vai, non ti preoccupare, vai tranquillo. Allora, io sono stato stupato all'età di 5 anni. Sei stato, scusa? Sei stato? Stuprato. Stupra... Amico mio, però se non parli bene io non ti capisco. Avvicina un po'. Sono stato stuprato all'età di 5 anni. Beh, mi dispiace. All'età di 5 anni dal fratello di mia madre. Ma io non capisco. Ma questa trasmissione, tra ieri e oggi, chiamano solo gente che si fa. Per carità di Dio, con tutto il rispetto. No. Ci credo quello che stai dicendo. Siccome ieri ha chiamato un altro che è stato stuprato a 11 anni, adesso chiama lei che è stato stuprato a 5. Io adesso ho 57 anni, non ho 20. Mio zio allora ce l'aveva, oggi ce l'ha 70 circa. Aveva 20 anni su per giù. Fermo, un minuto e 40. Fermo, Pasquale. Allora, stuprato. Adesso andiamo a capire bene. Stuprato che vuol dire? No, per carità, poi anche una mano sul culo può essere un trauma. Stuprato. Sì. Stuprato a 5 anni. Vabbè, come ti devo dire? No, per carità, è per capire. Ecco. Dai, su, Pasquale. No, proprio da deficiente, dall'ignorante ti sto spiegando. Va bene, devi spiegarmi come vuoi tu. Allora, lui mi chiudeva in una stanza al buio quando mia madre non ci stava, che non ci stava nessuno, e faceva tutti i porci comiti suoi. Io mi minacciava, perché mi picchiava, mi diceva che mi avrebbe ammazzato. Quando io sono arrivato a 10-11 anni e l'ho riferito a mia madre e a mio padre, mi hanno preso per pazzo. Va bene, io non sono andato a scuola, vicino a casa mia c'era una famiglia di trasportatori. Vabbè, che facevano insomma... mercati. Io mi nascondevo su loro casa per farmi portare con loro, per non rimanere a casa, va bene. E quando sono diventato, faccio questo mestiere proprio per questa vita qua, io non sono andato a scuola, sono un ignorante, sto a fare bene il mio lavoro. Io a mio zio non l'ho ammazzato, cioè non mi hanno mai creduto i miei. A mio zio non l'ho ammazzato, lo sai perché? Perché nel crescere, andando avanti, dico mi rovino la vita. Mi rovino solo la vita, e lui è un eroe e io sono un assassino. Mi sono fatto la mia famiglia. Ci ho quasi passato sopra, l'ho superato, diciamo, sto tratto, ma all'interno nel mio interno. Quindi tu dici, che cosa devono fare degli stupratori? Non dico che devono ammazzarlo, tagliargli il pisello, ma una cosa chimica va fatta, perché non sono malati. Guarda che io non ho detto che sono contrario, mi stupivo che Parenzo fosse d'accordo. Non è gente malata, è gente viziosa. Scusami, sei gente viziosa. Ma qual è la domanda allora? Qual è la domanda? Quella è la domanda che ti aspetti da me, non ho capito. Che tu dici che li devono curare, che non devono tagliargli il pisello. Io gli taglierei il pisello, castrazione chimica, li chiuderò in prigione a vita, perché quella gente non è malata, è viziosa. Va bene, questo è il mio parere. Pasquale, per me ci vuole la pena massima prevista, non so quale possa essere. L'uccisione no, perché sono contrario alla pena di morte. Però la castrazione va benissimo. La castrazione, se serve va bene. Ho dubbi sul fatto che possa servire la castrazione. Però se serve va bene pure la castrazione. Ma per 10 anni, no? Sì. Ma io non penso che. Ma neanche per pensarci lontanamente che dovrebbe capitare una cosa del genere. Ma se dovesse capitare, ma che ne so io come so, tu lo ammazzeresti con le tue mani, da come vedo che si può darsi che l'istinto sarebbe quello, sicuramente. Ma immagino, Cruciani. No, ma l'istinto sarebbe... Io adesso sono nonno di 4 nipoti, no? Se farebbe una cosa del genere a uno dei miei nipoti, ma io il pezzo più grande sarebbe l'orecchio, e mi mangerei il cuore a morsi. Perché quella gente che non deve vivere. Ciao Pasquale. Io adesso con te mi sono sfogato, perché sono tanti giorni, io sento sempre la tua trasmissione. Ma l'hai chiamato? Hai mai raccontato questa tua storia o no? Di stupro a 5 anni, lo zio, eccetera. Mia madre e mio padre, quando avevo 12-13 anni. Ho capito, ma perché non avete fatto carcerare questo qua? Scusa, spiega, mi ha stuprato a 5 anni, questo va a carcerare. Questo va a carcerare. Ho capito, ma pure i tuoi genitori, perché non l'hanno denunciato? Non mi hanno creduto, cioè io mi capito, ma che immaginazioni, hai capito? Ho capito, Pasquale. Io fantasticavo. Ho capito, ma non si sono mai pentiti di questa roba qua. Cioè, tu poi avranno avuto consapevolezza quando. Non l'ho più riaperto con i miei genitori quel discorso. Non l'ho più, perché ho voluto dimenticare, volevo dimenticare a tutti i costi. Ti ripeto, io mi nascondevo sui camion di una ditta che abitava vicino a casa mia, che facevano i mercati generali a Roma, a Milano. Mi nascondevo per non rimanere a casa, perché loro non mi ci volevano, perché dicevano tu devi andare a scuola. Io mi nascondevo, la mattina mi trovavano solo in mezzo alle cassette della. Pazzesco. Che ti fai qua? Non voglio stare a casa, hai capito, Cruciani? No, ma Pasquale, guarda che per me devono avere il massimo della pena, e se serve anche la castrazione, però in questo. Nel caso tuo, io credo che i tuoi genitori qualche piccolissima responsabilità ce l'hanno. Adesso non ti voglio dire niente, perché insomma hanno coperto, o comunque no, anche il fatto che non ti hanno creduto è gravissimo, no? Io ti avrei portato a fare una visita, se uno dice mi hanno stuprato o mi hanno che ne so, mi hanno ha usato violenza nei miei confronti, ti porto dal medico per vedere se è vero o no. I miei, ma 45 anni, io non sto parlando di te, io sto parlando di 45, io ho 57 anni, io sto parlando, questo l'ho raccontato ai miei, l'ho raccontato ai miei quando avevo 11-12 anni, adesso non ricordo neanche. Non l'hai raccontato. No, quando avevo 10-11 anni, ti sto parlando di 47-48 anni fa. Pasquale, allora, ti abbraccio, dai. La famiglia di contadini non mi hanno creduto, hai capito? Sono andato avanti così, però questa è una cosa che io porto dentro. Che... Ma certo, certo, non c'è dubbio. Va bene, dai, ti abbraccio, ciao, ciao, ciao. Oh, ritorna alla zanzara Maurizio Bianconi, Forza Italia. Come stai, Maurizio? Bene, ma io sono conservatori e riformisti, non sono più di Forza Italia. Come non sei più di Forza Italia? Io non seguo più queste cose. Ma che è conservatore? Come che vabbè? Partiti del Movimento Nuovo. Ma che movimento? Ma non c'è bisogno di niente, ormai è tutto finito. Ma è finito, uno sì, dai. Conservatori o riformisti, scusa? Conservatori e riformisti. Maurizio, è tutto finito, dai, su, diciamoci la verità. Speriamo di no. Ma sì, ma è la tua ultima legislatura e purtroppo mi dispiace, perché sei una persona intelligente. È la mia ultima legislatura comunque, perché io ho un'età per il quale è bene che... È bene che te ne vai a casa. Senti, ma quello che sta uscendo fuori su queste donne che tengono per le palle il Berlusconi, che lo ricattavano, che te ne pare di questa cosa? Alla fine Berlusconi avrà altri guai, forse. Non ne parlo volentieri. Perché? Non ne parlo, perché ho capito. Insomma, che un uomo così poi se ne fosse tenuto, come dici te, per le palle da... Sì, questo sembra, è tenuto ricattato, insomma c'è questa che dice domani proprio materialmente, domani butto giù il cancello di Arcore, comunque vado a rubargli una macchina al vecchio. Non è un bel sentire né un bel leggere. Ho capito, ma al di là di questo, anche se lui poteva immaginare un ritorno alla vita politica così eccetera, questa cosa qua l'ha affossata. Questo secondo me è indipendente, nel senso che Berlusconi Se rimane o torna in vita politica è un tentativo di sopravvivere a se stesso, a prescindere da questo. Insomma, il suo ciclo è chiaramente terminato. È tutto finito ormai, eh? Sì, secondo me sì. È tutto Lui finito. Ha fallito la rivoluzione liberale, perché tutte le volte che la stava per fare c'era Gianni Letta, chi per Gianni Letta, che gli diceva di calmarsi, o Tremonti che gli faceva i provvedimenti contrari, o anche la Lega di Bossi che gli ha impedito di non fare la rivoluzione liberale, o tutti gli interessi traversi che hanno attraversato appunto anche il centrodestra, purtroppo. La cosa mi fa impazzire. Ha raccontato cose alle quali tutti abbiamo creduto o abbiamo combattuto, ma in effetti lui non ce l'ha fatta. Gli hanno fatto un bel muro, l'hanno messo in molte difficoltà, però non ce l'ha fatta, insomma, ecco. Lo vedo un po' spento Bianconi, Parenzo, no, non combatte più. Ormai è rassegnato alla fine di un mondo. Lui è rassegnato alla fine. Io non davvero, se farsi sì. Un movimento nuovo è che si può fare proprio tutto quello che non è riuscito a fare Forza Italia. Ma insomma, chi c'è in questo movimento? Quali persone? Siamo i medio fichi del paniere, guarda. Ma chi siete? Quante siete? Gigi? Capezzone, io. Capezzone. Capezzone è una bella, a parte il nome, è una bella testa. Figurati. È un uomo di primordine. Conosciamo benissimo. Quindi c'è Capezzone, facciamo le leggo, non saranno tantissimi. Corsaro, Bianconi, La Franco, Fitto, Capezzone. Fitto. La Bonfrisco. Ma è tutto finito ormai. Cizia Bonfrisco. Ma voi avete... Sì, voi pensate che sia tutto finito, ma noi tutto pensiamo finito, di no, insomma, perché tutto poi finito. Chi si rassegna lo prende sempre nel sottocode, bisogna per non dire in un altro posto, bisogna combattere sempre fino all'ultimo, non è mai finito, è la rassegnazione che fa finire, la superficialità, la rassegnazione, il vivere comodi. Senti, ma io ti voglio un tuo pacato giudizio sulla vicenda De Luca, rimesso in piedi da un tribunale. Che la Severino era fatta solo contro Berlusconi, io glielo dissi a questa fila di imbecilli, e litigai anche a morte, le cronache parlamentari quel giorno li portavano con imbecilli Costa, di Forza Italia, che sì sì che era il relatore, dicendo che è una cosa fatta bene e che mai avrebbe colpito il leader. Ho detto: guarda che questa cosa te la fanno per fare mettere fuori gioco Berlusconi. Ma cosa dici? Sei sempre il solito. Io sono anche sempre il solito. Voi siete sempre i soliti imbecilli. Glielo dissi chiaro. E infatti è servita per far fuori Berlusconi ad onta dei suoi aiutanti giuridici, intenditori del cacchio, che l'hanno messo in queste condizioni. Fermi tutti, c'è la pubblicità. Aspetta che torno. Fermo. Fermo là, c'è la pubblicità. Cruciani e Paracuro. La Zanzara. A me questa notizia è quella che mi ha fatto impazzire più di tutte, cioè questa roba qui dei genitori che hanno portato un bambino in una condizione pietosa, 11 mesi, figlio di vegani integralisti, io non li sopporto questi qua, non li sopporto, quando sono integralisti non li sopporto, poi ognuno può fare il cazzo che vuole, ma non puoi ridurre un bambino di 11 anni a mangiare le bacche, non so che cosa, o a mangiare solo le verdure, a non prendere i latticini, queste robe qui, è una cosa assurda, dai, fatemi sentire di nuovo Montanini, fatemi caricare un po'. C'è la legge contro me, quanti punterebbero una pistola alla tempia a un vegano e costringerlo a mangiare un agnello scottadito? Alzate la mano. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh! Con sta carne. I vegani possono pure aver ragione, come i testimoni di Geova. Può essere già ragione. Ma la boria, la carne mangi, assassino, vi mettete la pezzo di merda. Boom! Schiaffo su. Però c'è la legge, non lo puoi fare. Secondo me i vegani hanno un problema col marketing. Sì, perché se tu vuoi attrarre il target Giorgio Montanini, vegano, non è che mi puoi mandare il tuo capo invasato con le cespugli dei capelli sporchi, le unghie nere, lo sai, io, tipo San Francesco, i sandali a dicembre, mangio cadaveri, no, perché dico, stai a casa, devo 50 centesimi, vai. Volete il target Giorgio Montanini? Mandatemi la più bella gnocca vegana che ci avete. Ma io non mi convincerei nemmeno con una gnocca vegana, devo dire la verità, No, ne conosco diverse, ma no, non riuscirebbero a convincermi nemmeno le gnocche vegane, finché si può scegliere poi, no? Cioè, perché proprio vegana? No, perché io no. Proprio vegana? Che è? Chi è che è? Sono troppo amante del formaggio, della carne per poter... No, poi Red Ronnie che fa, che credo che no, sia... No, però lui non è vegano. Il suo Roxy Bar, come non è vegano? È vegetariano, credo lui. Ma è pure vegano, è tutto, non ti preoccupare, è anche vegano. Pacchetto completo. Disse una volta qui da noi che i vegani erano superiori. A me un'altra cosa mi fa andare di matto. I vegani sono superiori, ma superiori un cazzo! Cioè è gente malata, quegli integralisti malati. Hanno portato... Io leggo qua i giornali, cioè non è che si inventano le cose, no? Poi bisognerà confermare, bimbo malnutrito, i genitori sono vegani, un anno ricoverato a Firenze, indaga la procura, l'ipotesi è che c'entri l'alimentazione imposta da papà e mamma. Quando, dopo l'iniezione di vitamine, è arrivato il primo omogenizzato alla trota, Filippo l'ha divorato con un sorriso e i genitori, guardandolo, si sono quasi commossi. Avremo rimorsi, ma adesso abbiamo capito. Ma hai capito un cazzo? Dopo un anno hai portato il tuo bambino in ospedale, sei un coglione. Tu sei vegano, ma sono esseri superiori i vegani? Beh, io te lo posso dire, sì. Bianconi, aiutami tu, ti prego. Aiutami no, tu, ma Maurizio, aiutami tu. È una aiutami di quelle... Ti ricordi quando c'erano quelli che andavano a meditare con i santoni? E c'è, ogni tanto ti piglia lo schiribizzo a questa borghesia ben pensante, vagamente di sinistra, capito? Ma che c'entra la sinistra? Fanno le mode, ora c'è quella vegana. Ma che c'entra la sinistra con i vegani? Perché c'è quel radical chic un po' ma di sinistra. Ma perché Redroni è di sinistra? È stato consulente della Moratti. Come ma scusami, guarda te? Ma guarda che sei simpatico anche te, aretino mio. Per fortuna te, frequentando Crociani, piano piano stai diventando quasi umano, ma anche te saresti di quella razza lì, capito? Ma guarda che stai delirando, ci manca solo che sei vegano, effettivamente. Ma che c'entra i vegani con la sinistra? Ma sei veramente fissato, sono tutte quelle manie storicamente attribuibili alla sinistra benestante. Ma che sì, alla sinistra della cultura, di quella che va a teatro, di quella che ritiene che c'entra il teatro, c'è una manica di ignoranti, di bugiardi. Non c'entra il teatro, io vado a teatro, vegani, ma cosa c'entra il teatro? Con i vegani. No, che tutta, perché tu non vai a teatro? Questo, male, tutta malissimo. La storia della superiorità, della superiorità culturale antropologica di una certa categoria di persone, che per lo più sono borghesi, radical chic e di sinistra. Guarda, no, che ma... la signora Brambilla, che è un amante, che era del tuo partito. La signora Brambilla lascerà stare, voglio dire. Io, sarà mica di sinistra la Brambilla, credo che vegana, ma vegetariana. Guarda, la Brambilla è fuori da ogni valutazione umana, subumana e parumana. Ma quando io facevo degli esercizi, si votava a Siena, sì, e lei si incazzò perché c'era il palio con i cavalli eccetera. Ma basta, e io dissi che aveva sfatato un mito della sinistra che pensava di avere l'esclusiva per tutto, e invece lei con quel comportamento alla settimana di elezioni provava che almeno degli imbecilli l'esclusiva alla sinistra non ce l'aveva. Quindi voglio dire, la Brambilla non fa testo, ecco. Immagino però Maurizio, c'è anche per esempio anche nel centrodestra, quando le quote rosa, allora tutte via e firmano queste cosine per le quote rosa e si sentono tutte ganze. Oh, c'è da fare. Ci hanno tenuto la scorsa legislatura, tutta questa gente, 2 giorni a discutere se si tagliava o non si tagliava la coda ai cani. La coda ai cani, era la repetta. Ma non c'entra niente con i vegani, ma non c'entra proprio niente. No, c'entra invece perché fa parte di un mondo che gli pare di essere alla pace, capito? Quando va di moda una cosa, un po' è vero, io non conosco un vegano di destra, io non lo conosco, però devo dire la verità. Ma che c'entra la politica con i vegani? Fanno parte di quel mondo lì, capito? Ma... Di quel mondo che noi siamo sempre indietro e loro sono sempre avanti. Ma è quel mondo che te indietro e che sono indietro, e sono indietro, e loro sono sempre avanti. Mi pare una grande sciocchezza. Guarda. Sono avanti anche nell'alimentazione. Mangio dog, mangio gli hamburger, mangio i formaggi. Perché stando molti con Gianni, hai messo il rischio. No, ho sempre mangiato formaggi e tutti mi prendevano in giro per i formaggi francesi che mangio sempre. Quindi non mi rompete le balle. Ma immagino che sei in lutto per il cavallo morto a Siena, Maurizio. Mi dispiace moltissimo perché io. Certo. Sono quasi animalista, sono un fissato dei cani e voglio bene alle bestie quasi più che ai cristiani, però ci sono tradizioni che purtroppo hanno questi costi, no? anche andare in macchina costa tanti morti, ma non si smette, capito? La contrada è che ha perso il cavallo era a lutto, tanto per dire quanto tengono i senesi ai cavalli. Cavalli da palio, capito? Certo, i cavalli vengono benedetti in chiesa, capito? Siamo d'accordo. Certo, allora, è una ragazzi, grande tradizione. Vi faccio sentire un'altra cosa prima di salutare Bianconi, ed è quello che ha detto: io divento pazzo per questa cosa, perché l'abbiamo già detto ieri, però vorrei un pacato commento di Bianconi su questo. Ivan Scalfarotto è sottosegretario non so a che cosa, il quale dice che si riparla delle coppie gay perché lui vuole fare lo sciopero della fame ed è anche consapevole del rischio di morire di fame. Ragazzi, però non si possono dire queste cazzate, a parte che tu sei al governo e se il governo dici che non fa nulla dimettiti dal governo, cioè se la maggioranza di governo, ma non puoi fare lo sciopero della fame perché la legge sulle coppie gay è indietro e non viene approvata, perché è una cosa ridicola. Lo sciopero della fame, se serve, e a mio parere non serve più a nulla, si fa per altre cose, lo faceva Gandhi, lo faceva Pannella per alcune cose, poi faceva lo sciopero della fame pure quando gli moriva il gatto. Comunque Scalfarotto, dai. Un tema che è di grande attualità dappertutto, in Italia sembra non schiodarsi. Allora, il mio sciopero della fame, per così dire, io non starei parlando con lei probabilmente se non avessi preso questo passo. Rischia di morire di fame? Lo sapere, sono consapevole di questa cosa. Chi comincia lo sciopero della fame lo metto in conto. Però io, guardi, le dico, il mio obiettivo è quello di avere un impegno formale da parte della politica. Cioè quando la nostra classe... Io sono sottoscrittore di una proposta di legge per il riconoscimento delle coppie. Vabbè, d'accordo, però lo sciopero della fame. Ma questo è un esagerato. e per ritornare ai vegani, alle coppie gay, eccetera. È tutto quel mondo che si muove nella ineludibilità delle funzionerie, perché voglio dire, c'è 9 milioni di gay con i vegani, con la sinistra, e questo fa lo sciopero della fame per le coppie gay. Ma fai una confusione pazzesca. Cosa c'entrano i gay, i vegani, la sinistra? Mamma mia, ma che c'entra? Io per esempio sono stupito che la Boldrini non sia vegana, perché la Boldrini è la classica vegana, capito? Sì, ma che ne sappiamo, magari capito? La sinistra è un po' stronza, sì, no. Ma magari è vegetariana, non lo sappiamo, cioè, ma sì, ma rientra nello schema, capito? Ci sta, ci sta, ci sta, dai, ci sta, rientra che diventa nello schema. Vabbè, Maurizio, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. When you've done all your running, run to me. Vabbè dai, torniamo con la rubrica dopo non so quanto tempo. Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Carlo, vai. Sì, pronto. Dunque, dimmi. Io volevo esprimermi molto brevemente nei confronti del presidente Obama, sì, che ha recentemente ha dato, sì, l'ok per tutti gli stati e, sì, il matrimonio fra pederasti. Questa iniziativa degli, sì, Stati Uniti d'America, sì, che Dio li stramaledica, sì, non, certo, è altro che un autentico atto di terrorismo, sì, di terrorismo, ma il terrorismo con la T maiuscola, nei confronti, sì, della famiglia tradizionale, della famiglia sana. Pensi che io avevo dei compagni, chiaro, di scuola, sì, io ormai ho una certa, sì, età, che, sì, addirittura so, andavano con la capra, andavano con la pecora o addirittura con una gallina, che se ne vantavano, però sono stati ricoverati per direttissima per malattie mentali. C'è qualche cosa? No, io sono assolutamente, posso fare solo una piccola obiezione, professore. Un po' mi sconvolge questo paragone che fa dei suoi compagni di scuola che andavano con le capre e omosessuali. No, scusi, sono quelle, questo legame che lei costruisce mi sembra una cagata pazzesca, ma davvero glielo dico non perché sono snob, con rispetto. No, no, no, no, ma anche a me sembra una cagata. Effettivamente è una cagata, come una cagata quando una persona non ha ancora capito a cosa serve lo sfintere anale. Scusi, anale, scusi, è una via d'uscita, è, scusi, una via d'uscita. I pederasti mi hanno fatto un'agenzia delle entrate, tutto lì, con le malattie, le più spaventose malattie infettive. Ma questo è numero uno. Aspetta, e allora cerchiamo di metterci un pochino con ma la testa. Ma che schifo. Se a me piace pigliarlo in culo, dammi tu una risposta, dimmi. Lei si faccia ricoverare oppure, sì, si faccia dare un contributo statale per essere, sì, curato fisicamente. Vado da uno psicologo, si faccia curare il cervello, si faccia quello che vuole. Comunque lei non è una persona normale. Facciamo un esempio, poi ti lascio. Se tu incontri due uomini che si danno una bella slinguata, che si amano, si abbracciano, si baciano, cosa fai? Cosa fai davanti a te? Cosa fai? Rimetto, cioè rimetti, vomiti. No, io rimetto, penso che dovrei rimettere. Tipi da Zanzara. Amici miei, siamo al flop. La Zanzara. Allora, andiamo a Milano, Giuseppe. Vai, Giuseppe, vai. Tu sai che è in corso ad Atene? Una grande manifestazione. Ma che cazzo me ne frega di quello che è in corso ad Atene? Niente. Non me ne frega niente che cosa è in corso ad Atene. Cioè, contemporaneamente sono due grandi manifestazioni, una, sì, per il sì al referendum e una per il no. Sì. Una ma con no, 25.000 persone e una con 17.000. Che cosa strana che ci sono due manifestazioni, una per il sicuro. No, ma ci non fosse è anche una terza manifestazione. Cioè, no, non è è interessante che però 25.000 persone per il no, 17.000 per il sì, 25.000, in 17.000. No, ma secondo te la gente ad che Atene, è in strada, oggi, è in strada, sì, alle 20.15, interessa me sapere che ad Atene sei snob, eh? già il referendum greco, diciamo, una cosa mi interessa moltissimo invece. No, la fine della Grecia interessa moltissimo tutti quanti. Io l'ho già detto come la penso, al di là di tutti gli errori che può avere commesso l'Europa, la Grecia, entrare nell'euro, no, prima paghi i debiti, prima paghi i soldi che devi dare anche all'Italia. Beh, questo è il tema, quanto, tutta la tua quanto economia. E come darli, questo è il vabbè, tema. Ma quello lo sappiamo, i dettagli non ce ne importa niente. Beh, prima quindi... ristrutturi, beh, prima paghi e poi parli. Vabbè, ma detto prima così sembra semplicistico, però no, il tema è quanto e come darli, non vabbè, sì, prima paghi. Vabbè, prima paghi, dettagli, però. Ragazzi, ma questi qua andavano in pensione quando cazzo volevano loro. C'erano le baby, le ultra baby pensioni. Questo è una certo. C'erano non so quanti dipendenti dello Stato, il 10% di dipendenti dello Stato su una popolazione di pochi milioni di abitanti, era pieno di statali, era pieno di corruzione, ci hanno vissuto alle spalle nostre. Evasori fiscali, evasori fiscali. Sarà messo a posto un po' di cose, però ancora non basta. Per cui tutta questa cosa, viva la Grecia, perché può darsi pure che lo metti in quel posto all'Europa o alla culona, alla Merkel. Sono cose ridicole, cioè sono cose ridicole. I greci hanno vissuto una buona parte degli ultimi anni alle nostre spalle, facendosi pagare da noi. Questo è il punto. Allora, o rimettono a posto la questione loro, oppure uscissero dall'euro e non ci rompessero le scatole. O no? Vabbè. C'era Giuseppe, Milano, vai. Pronto? Dimmi. Niente, volevo tornare sull'argomento delle moschee. Le moschee, io praticamente abito in via Padova, al 142. Noi a Milano. A Milano, sì. Se vuoi dare pure l'indirizzo col citofono, daccelo pure, per carità. 142 via Padova. Sì, allora ci sta, c'è là un centro islamico, centro sì, di cultura certo. islamico, che viene usato impropriamente come moschea. Esatto. Praticamente in questo periodo qua di Ramadan, questi pregano più volte al giorno e nelle ore serali usano i megafoni, i microfoni, sì. dando fastidio praticamente, tengono cioè, ti danno fastidio gli islamici per i megafoni e per il rumore danno che fa. Danno fastidio praticamente a tre condomini, abbiamo segnalato più volte la cosa. Ma Parenzo, le moschee sembra... portano pure questo problema. Sembra diciamo che non, la verità, si ragazzi, nulla. Non si possono fare 10 no, allora, non Milano, possono dai. Pregare, dieci. Allora li volete far pregare per strada come aveva le Iene, non possiamo non trasformare fare il loro Ramadan. Non possiamo trasformare, se diamo le cose leghista, così non possiamo trasformare. Ma che c'entra la Ma Lega? Tu hai mai girato? Sei mai stato a Parigi, a Londra, nel mondo? Hai, ma hai mai Parigi, visto? È una città immensa, dai. Sei mai puoi stato paragonare. A Parigi? Hai mai visto la quantità di moschee che ci sono a Parigi, vabbè, ad esempio? Ma se vuoi fare 10 moschee a Milano, falle pure, tranquillamente. Ma, ma sei mai girato il mondo? Hai visto cosa succede? Cosa. Ma che volevo? Se volete rimanere tu, la ruspa di Salvini e chissà chi altro, fate così, fate pure così il vostro mondo. Tu, la ruspa di Salvini, tu. Fare Salvini certo moschee possono pure a parte che stai mettendo in mezzo Salvini che non c'entra niente. Io ma ho detto certo è la stessa cosa che dice Salvini, ma alla non, fine. Non dico niente, non ho detto niente identiche a Salvini, identiche, ma tu attacchi identiche. Solo a questo identiche a Salvini, non ho detto niente. Ma abbi coraggio di dire sì, la che penso per me Salvini, ma lo dici non, sempre, si ottenne, non si arriverà mai ad avere 10 moschee a Milano come ci ha detto l'altro giorno quel rappresentante, un altro discorso. Non si arriverà mai e secondo me non è nemmeno una cosa da fare 10 moschee a Milano, ma non è 10 adesso questo signore qua non ce ne sono 10, perché non le proponi a Tel Aviv 10 moschee, proponi a Tel Aviv 10 moschee. Però ma questi, ma guarda che moschee. Sei veramente un somaro, ci so, ma più altro che 10 moschee. Ma te la vive no, piena di moschee, ma che dici? Dimmi è pieno di moschee, moschee. Dimmi il numero che ci sono. Dimmi è pieno di moschee a Tel Aviv, sono talmente poi, tante. Ma... poi dimmi il numero di moschee che ci sono a Tel Aviv. Oh, è pieno di moschee a Tel Aviv. Ma ti pare che uno dice non fate le moschee a Tel Aviv, è pieno di moschee. Dimmi quante ce ne sono, traffico. Ma sono tantissime. Poi dimmi quante ce ne sono. Non puoi neanche contarle. Poi dimmi quante ce ne sono, traffico. Traffico veicolare. La Zanzara. Allora, vogliamo chiamare questo Franco Ziliani che mi ha rotto le balle dicendo che mi vuole aspettare sotto la radio perché l'abbiamo preso in giro l'altro giorno, questo critico di vini. Prova. Franco Ziliani, sentiamo. Franco Ziliani che dice: mi avete preso in giro sulle cose che ho detto, sull'Islam, sull'invasione, eccetera, eccetera. Ti aspetto sotto la radio per farti una sorpresina. Franco Ziliani, sentite. Ziliani? Sì. Sono Cruciani, che cosa vuoi fare? Non ho capito, vuoi venire qua sotto? Non ho capito bene. Siccome mi è stato riferito che lei ieri nella sua trasmissione mi sì. ha ancora citato, ha trasmesso un brano del mio intervento del 18 giugno. Io la diffido dal fare il mio nome. Se lei si azzarda ancora un'altra volta a fare il mio nome e a prendermi per il culo come ha fatto ieri durante la trasmissione, perché mi è stato raccontato e non ho ancora avuto tempo di ascoltare la registrazione, io vengo fuori dallo studio di Radio 24 e la tratto come lei merita. E cioè, ma non le metto le mani addosso, cioè perché come? Non mi sporco le mani mettendo le mani addosso, perché mi sporcherei le mani. Certo. So io come trattarla. Però scusa Ziliani, tu mi hai sostanzialmente minacciato, cioè vengo sotto la radio se tu nomini... minacciato? Io non ho detto che vengo e la picchio. Vabbè, uguale, no. Ci sono tante minacce. No, semplicemente... Ma poi non ho capito, ma è bello magari... Magari vengo con un secchio di vernice gialla e gliela verso in testa. No, avevo in mente un'altra soluzione, un'altra materia da versarle sulla testa. Cosa, il piscio? Quello è un progetto che prima o poi realizzeremo con degli amici qua a Bergamo. Con una materia che penso le farebbe bene versargliene qualche chilo in testa. La merda. Questo lo dice lei, signore. Io non ho capito. Ziliani, ma qual è il punto fondamentale? Perché lei ieri nella trasmissione mi ha citato e mi ha preso in giro. Vabbè, allora qual è il problema? Viviamo in giro tutti noi, qual è il problema? Non mi citi, io non esisto, io non esistevo per lei prima della trasmissione, giustamente non sono nessuno, perché mi deve chiamare in causa? Io vorrei che lei partecipasse al Gay Pride, dove si vedono i culi di fuori, le piume, la gente che si bacia. No, i culi fuori sono roba che lascio a Cruciani, non a Parenzo, che è una persona seria. Lei ha scritto sul suo che è in corso un'invasione sul suo profilo Facebook, una vera e propria invasione. Amico mio, non ho scritto che dobbiamo sterminare i rom o che dobbiamo bruciare i negri o i neri, non l'ho scritto. Ha scritto no. Dobbiamo liberarci, no, di quei viva cacchio, dobbiamo liberarci perché purtroppo sono troppi. Lei pensa che la BCE sia una manica di strozzini, diciamola tutta. Ragazzi, lo dicono anche a sinistra, amici miei, ma dove vivete? Capisco che lei lavora per il giornale per la radio della Confindustria. Dei padroni, certo. Dei padroni. Pensi io che sono di destra, faccio dei discorsi di sinistra, ma forse perché mi appello a un movimento rivoluzionario che ci fu all'inizio delle... No, gli inizi, erano gli anni, inizio degli anni 20, ecco. Penso che alcune idee di quel movimento rivoluzionario siano molto... Il fascismo. Tu mi sei molto simpatico, devo dire la verità. No, invece lei Cruciani, guardi, è la prima volta che ho visto la sua faccia, veramente. Non sapevo, l'ho vista in televisione. Già uno che è opinionista insieme a Scanzi, come si chiama, oddio, questo programma di Italia 1. Hai un'ossessione. Chi ti caga, dovrebbe essere. È un programma che lo guardano in quattro gatti. La solita contraddizione di quegli imbecilli di Mediaset. Sì, che pagano quelli di estrema sinistra. Ma io non so, è incredibile, è la coglionaggine di Berlusconi, padrone è figlio. È infinita. Invece almeno Rai 3 fa lavorare giustamente i comunisti e basta. Certo. Quando vedi un musulmano deputato come Khalid Chaouki, cosa pensi? Mi è cordialmente antipatico. Signor Chaouki, detto? Sì, so chi è questo signore, lo vedo ogni tanto in televisione, intervenire ai talk show. È uno fantastico per rendersi odioso alla maggior parte del popolo italiano. Proprio. Ma perché? Poi se il PD se lo mette in lista per catturare i voti degli islamici, sono per me il PD, io PD lo aborro, si figuri. Per me possono fare quello che vogliono. Vabbè, capisci? Franco, ti saluto, ciao. Lei non ha risposto alla mia domanda. Comunque, se lei mi cita un'altra volta in trasmissione, io verrò a aspettarla sotto la radio, non le metterò le mani addosso, perché non sono un violento, però... ma farò qualcosa che lascerà il segno. E mi stia bene, buongiorno Parenzo, lei mi è simpatico. Grazie. Mi è simpatico e si liberi da Cruciani, riconquisti la sua libertà. Ciao. Ecco. Ragazzi, però questa qua è l'ultima volta che diamo spazio a questo Franco Ziliani, mi ha veramente rotto le balle sto Ziliani. Ma chi si crede di essere? Cioè, uno scrive di vini, va bene, c'è un critico di vini, cioè, giudica quelli che lavorano a Mediaset, quelli che lavorano da altre parti. No, ti devo raccontare una cosa, Parenzo, perché oggi è venuto qui all'Expo Alberto Torreggiani, che è rimasto sulla sedia a rotelle perché quel terrorista di Battisti fece un attentato in cui è rimasto ferito, in cui è rimasto ucciso il padre e lui ferito alle gambe. Vabbè, la storia che sappiamo di Battisti, no? Voleva distribuire dei volantini di fronte al padiglione del Brasile. dei volantini per dire che il Brasile non è solo quello, è anche quello che ospita un terrorista, eccetera eccetera. Insomma, è arrivato quasi a ridosso del padiglione, ma la polizia gli ha impedito di distribuire i volantini. Ora dico, ma non è che questo è un territorio... è Italia, cioè non siamo in una... No, non è una situazione extraterritoriale o diplomatica. Non capisco perché non si può distribuire all'interno dell'Expo un volantino sul Brasile. Cioè, la colpa forse non è dei politici. Non vogliono in generale che si faccia politica o... Ma chi se ne frega? Cioè, chi no, se... Perché noi adesso non possiamo... Qui stiamo parlando, ci sono anche gli altoparlanti, e diciamo che il Brasile dovrebbe essere cacciato dall'Expo, secondo me. No, dovrebbe essere chiuso il padiglione del Brasile. Ma che c'entra il cibo, ragazzi, nutrire bisogna, il pianeta... Bisogna, è incredibile, ma... bisogna avere le palle. Siccome c'è questa situazione pendente con il Brasile, dobbiamo chiudere il padiglione del Brasile. Ma questa è un'altra cosa, l'Expo. Secondo me è così. Ma lascia, questa è la mia opinione. Comunque lo possiamo dire apertamente. Ci sono gli altoparlanti e tutto. Non capisco perché un signore sulla sedia a rotelle, che ha avuto un trauma pazzesco da 30 anni col padre morto, lui sulla sedia a rotelle, non può distribuire 100 volantini in cui si dice semplicemente che il Brasile si dovrebbe vergognare di ospitare un terrorista davanti al padiglione del Brasile. In questo spazio dell'Expo la democrazia non esiste, perché non puoi distribuire un volantino, non puoi dire come la pensi. Ma perché? Cioè, qual è? Di cosa hanno paura? Che si dica qualche cosa su Battisti? Adesso la colpa non è dei poliziotti, poveracci, che hanno fermato, quelli hanno fatto il loro dovere, ma c'è una indicazione precisa da parte dei responsabili dell'Expo che qui non si possono distribuire volantini. Ma ti rendi conto o no? Cioè, è una roba ridicola. Cioè, uno spazio di libertà, di discussione. No, io sto con Expo in questo caso, perché la cosa che c'è da fare pure lì su dentro... questo stai con l'istituzione. Sì, pure perché su questo stai se con no diventa il palcoscenico... Lecchiamo il culo pure a sala. Ma dai, cioè, se uno non la pensa come te... Ma non ho capito. Ma no, ma in questo caso è una cosa matematica. Sei tu che stai trasmettendo da là, peraltro. Distribuire... Io sono qua, te pare. Sei te che stai a parlare da Expo. Io sto qua a casa mia. Che cazzo me lo... Devo dirti la verità, mi hanno costretto. Non volevo venire. Ma è una roba molto bella invece, ma io sono qua. Tu sei là, mangerai gratis oggi sicuramente, no, in giro per tutti gratis. Quegli stand, come al solito, che ti offriranno di tutto gratuitamente, ma chi se ne frega. Ma il problema è che se, ma sicuro, vai lì, passi, ti offrono da mangiare, da bere, ma gratis lì, a spese, a mangiare a sbaffo a gratuitamente, perché questo farai mentre gli altri pagano per entrare a Expo, tu sei lì gratis e mangerai gratis stasera. Questa è la verità. E quindi vabbè, questo non c'entra stare. Nulla, ma questo accadrà. Sono qui per lavoro, amici, purtroppo. Che siete lì dell'Expo per lavoro, certo, però che sto facendo adesso. Amici di Expo che siete lì, fotografate Cruciani che mangia gratis mentre voi pagate 35 euro per entrare. Lui mangerà gratis stasera. Fotografatelo. Ma fotografate cosa? Mentre mangi, giri, ti offrono, fai. Ma qualcuno allora, mi offrirà qua, la cena ti stasera offrono qui la cena. Sì, appunto, allora qual è il problema? Rispetto a tutti quegli altri che invece pagano. Sono privilegiato rispetto agli altri. Qua, beh, certo, non c'è qua, dubbio. Ma allora qual è il problema? Ci ho detto. Calma. Io invece voglio dire che siccome lì è nutrire il pianeta, oh, e il tema dell'Expo è un'altra cosa, non si trasforma questa grande occasione per fare gazzarra su tutti gli argomenti del mondo. Gazzarra, perché altrimenti poi arriva l'associazione BUBU della Cina, che fa la manifestazione per BUBU Cina, poi arriva quello del Tagikistan, poi arriva quello del Bubù, poi arriva l'anti-israeliano, poi arriva il palestinese. Lì si parla di cibo, non di altro. Vabbè. Di cibo, nutrire il pianeta, e non si usa per fare il palcoscenico. È finita la slinguata all'Expo. Parenzo ha finito la sua slinguata all'Expo. Sei tu lì gratis, fermi tutti, io, riprendiamo tra sei poco. Tu la sono gratis. Perché io mi hanno costretto Roma. A venire, a non Roma. Ci voleva venire, io sono non a ci Roma. Voleva venire, chiaro? Non Roma. Perché si trasmette pure male in questo cazzo di posto. A dopo. Brucida. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Pronto? Direttore? Come? Direttore? Chi è? Direttore? Sì, ma sento male. Pronto? Vuoi chiamare sul telefono portatile? Direttore? Sento. Direttore? Sì, pronto? Pronto, qui ho il gettine. Sì, dica. Qui ho il gettine. Sì. Qui ho il gettine. Qui ho il gettine al poro. Anch'io, anche qui, qui ho il gettina. A lei niente soldi? Ho il gettine pieno? No, a tua madre sì. A lei niente soldi, sì, oggettine? A tua madre sì. A lei niente soldi, oggettine, piene denaro? Piene di denaro, oggettine. Lei niente soldi? Questo è drammatico. A lei niente soldi, oggettine, piene di denaro? Allora puoi sapere una cosa, questa telefonata ti costa una denuncia di quelle che te la ricordi finché c'è. A lei niente soldi? A lei niente soldi, oggettine, piene denaro? Oggettine, piene denaro. Lei niente soldi? Oh, make me over, I'm all I wanna be, a walking study. Oh, ma no, qui qualcuno è fissato che c'è una sosia di Valentina Nappi fuori dal vetro, ma non credo, non credo sia vero, non credo sia vero, la sosia di Valentina Nappi. Oh, look at my face. My name is Marvin. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Dai, andiamo a Nicola, provincia di Belluno, dai. Non c'è Daniele da Roma, dai. Pronto? Dimmi. Ciao Giuseppe, Daniele, ciao David. Dunque io volevo fare due osservazioni anche approfittando di questa versione 2.0 di Parenzo, calmissima, tranquilla, così io me ne approfitto parlando. Parenzo di è una settimana che è praticamente in coma, non dice stasera sei un po' risvegliato. Sì, non so se è un bene o un male. È una settimana che è praticamente è muto, sì, però ragione, no, ti dico che sei muto e te lo dico io, ma non è no, ma lui l'ha detto che non si piaceva più con quella voce chioccia e quindi ha cambiato stile per rispetto, dice. Esatto. Vabbè, comunque, allora posso? Vai. Ecco, e sono due osservazioni banali, però nessuno le fa, allora forse non sono banali. Una sull'Islam, che secondo me è una questione aritmetica, cioè per capire cosa succede nell'Islam basta togliere 600 anni, cioè quando Maometto insomma ha predicato, al cristianesimo, e arriviamo all'epoca 1400-1500, dove l'Inquisizione ammazzava centinaia di migliaia di persone, cioè loro sono in pieno medioevo. Diciamo religioso, quindi noi non potremo mai capire quello che pensano perché non ci rendiamo conto che c'è una massa critica che intorno a quell'età le religioni impazziscono e cominciano a mietere vite. Vabbè, però adesso non la buttiamo troppo in filosofia, che volevi dire? Vabbè, sono fermi a medioevo, che cosa? Nel senso che 2015 meno 600, che è quando Maometto ha predicato, andiamo a finire nell'epoca dell'Inquisizione, in cui il cristianesimo era di gran lunga la religione più feroce e sanguinaria mai esistita. Quindi loro in questo momento vivono il loro 1400-1500. L'altra cosa è sui rom o zingari o come cazzo li volete chiamare, perché ormai non si sa più come dirli, se no le demiviarce della sinistra si offendono. Però quando si dice che i rom o gli zingari rubano e qualcuno si affretta, non so perché, di corsa a dire sì, però pure gli italiani rubano. Sì, ma se su 60 milioni di italiani ne rubano 1000 e su 50.000 rom ne rubano 30.000, vuol dire che statisticamente loro sono assolutamente dediti al furto. E vi dico che la mia fidanzata è rumena e dice che i rumeni rubano tutti. Ma i rumeni sono incazzati come bisce sui rom, come bisce. Perché gli fanno fare una figura di merda. Però non capisco perché queste prefiche o prefiche della sinistra subito sì, però rubano anche gli italiani. E ci mancherebbe pure che su 60 milioni non ce ne stanno un migliaio che rubano, ma quegli altri rubano quasi tutti. Quindi perché non bisogna dirlo? Cioè, qual è il problema? Perché bisogna essere... Ma ho capito, Daniele, ho capito. Ciao. Emilio? Non so se mi senti meglio sul telefonino, No, ti sento bene qua. Ma oggi mi hai fatto vedere una cosa, ma c'è ancora gente che ti chiama? Gente che mi chiama? Sì, c'è ancora gente che ti... che in due giorni sono arrivati 160 messaggi, alcuni collegati, almeno così sembra, al terrorismo islamico. Cioè? Vuol dire minacce, il bene e il male. Telefonate che lasciano perplessi, soprattutto lascia perplesso perché la polizia postale, perché. Ma non ho capito, ti sono arrivati 160 messaggi. Il ministro dell'interno non intercettano ma queste non le intercettano. No, però non ho capito, ti sono arrivate 160 telefonate? Un po' di più. Addirittura? In tre giorni. Ma l'ultima quando ti è arrivata, scusa? L'ultima mi è arrivata, diciamo, un'ora e mezza fa. Ah, un'ora e mezza fa. Ma che dicono questi qua al telefono? Ma guarda, sempre le solite cose, stronzo, ladro. Cambia il numero. Come? Cambia il ladro, numero, scusami. Ladro, certo, stronzo. Dovrà... sì, i soldi, non i soldi, inneggiano all'islamismo, fanno di tutto. Sono 180, non un po' di più, sono circa 200. Ma tu come rispondi? È una persecuzione. La solita cosa, tua madre però. È una troia, tua madre è una puttana. Sì, anche minacce di morte, di tutto. Ma no, ma tu come rispondi? Questo è un caso pazzesco. Ma come si fa, poiché all'interno ci sono stati anche... diciamo così, espressioni favorevoli all'islamismo terrorista, che la polizia postale, che il cazzo devono fare, lui non siano intervenuti, certo. Ma che cosa devono intervenire? Allora, a fare minacciano, cosa? Poveretto, la scorta, che ti minacciano, ti diranno, ma saranno dei ragazzi che fanno degli scherzi, dai, su. Ma com'è che tutta sta gente a lungo? Allora io vi invito a immaginare cosa vuol dire per due giorni e due notti essere massacrati da, e poi ci sono anche c'è la documentazione oltre che quello che hanno detto a voce, non è possibile. Vabbè, ma comunque di solito che dicono? Fanno la voce da musulmani, dicono direttore. Ma alcuni fanno la voce da musulmani, si presentano come fossero vice di una moschea, altri invece si presentano proprio come. Ma poi scusa, ma come cazzo è possibile che hanno tutti il tuo numero di telefono? Io questo guarda, mi fa impazzire. Non è come un possibile? Mistero. Quando è scoppiato il famoso, non so se ne hai sentito parlare, casino del Bunga Bunga, sai, Bunga Bunga. Sì, Bunga, quella Bunga, roba lì del Bunga Bunga. Bene, sì. Hanno riversato qualcuno di nostra conoscenza stato in rete tutta l'inchiesta. Sì. Tutti vabbè, hanno d'accordo. Cambiato numero e io invece sono rimasto appeso a questo numero. E vabbè, perché sei un abitudinario alla fine, perché queste ti piace, diciamo no, la verità, piace, ti piace no, anche piace no, ti piace anche un po' ricevere telefonate di questi qua che ti pigliano per il culo. Sì, beh, ma poi io ogni tanto le ho ascoltate. Sono anche carine, ma vi assicuro che carine in che senso? Scusa. Sono drammatiche. Perché non vengono intercettati? Si è parlato tanto di quella famiglia italiana che è andata in India e ha cambiato, scoperto attraverso l'intercettazione. Senti, ma io non ho capito una cosa, perché Berlusconi ha riempito di soldi le oggettine e invece te a Emilio Fede l'ha lasciato un po', come dire, in disparte, e questo bisogna dirlo. No, non in disparte, innanzitutto il problema mio economico è legato all'azienda. L'azienda non è che mi ha lasciato in disparte, mi ha tolto licenziato di mezzo, licenziato, ti ha tolto di mezzo senza un euroncino, sai quegli euro piccoli, un po' già greci, niente. Non credo che sapesse, mi rifiuto di comunque, pensare che sapesse. La realtà è questa: le oggettine riempite di denaro che ricattavano Berlusconi e chiedevano continuamente soldi, Emilio Fede licenziato, questa è la realtà, dai, diciamola. La realtà è che Emilio Fede non ha percepito mai nulla più che fosse lo stipendio. E invece per le oggettine... riguarda le oggettine, io devo dirvi una cosa. Cioè, va bene, io c'ero. Dici una cosa. Tu c'eri. Certo, sì. Ma che dicevi a Berlusconi? Quando lo ricattavano, quando chiedevano i soldi, tu che facevi con Berlusconi? No, gli dicevi non ero presente alla richiesta dei soldi. Vabbè, però lo sapevi. Poi veniva a sapere, diciamo così, indirettamente, veniva a sapere che... Ma lui non parlava di elargizioni. Ma tu che gli dicevi? Tu che gli dicevi? No, io il più delle volte ho detto lascia perdere. E c'era da parte sua, ma no, poverina, c'ha la bambina, è malata, non ha più un padre. Cioè, l'idea sua, credetemi, poi io sono veramente al di sopra di ogni sospetto, non ho preso un euro, non è che sono stato comprato. Quello che dico, lo dico mostrando, scusate il termine, le palle. Della verità. Allora, mostrando le palle, cioè, ce l'hai ancora le palle, ce l'hai ancora le palle. E soprattutto nei confronti di qualcuno, ho detto lasciala perdere, questa tornerà a chiedere soldi, tutti chiedono soldi. Ma chi è che vi chiedono soldi? Lo stanno chiamando. Quindi voglio dire, io accanto a lui. Ma le palle ce l'hai ancora tu? Le palle, scusa, ma siamo a Natale? No, le palle le tiro fuori a Natale. Sono lì con l'alberello che ma che fai tutto il giorno, Emilio? Scusami, tutto io il giorno la più aspetta, ma voglio finire sull'oggettino. La più vorace di tutte, chi è? C'è la più vorace, quella proprio più... C'è ma questa sai, Barbara... vorace, bisognerebbe sapere se i conti che leggo sui giornali sono veri. Vabbè, mettiamo perché... che siano veri, quelli sono veri, sono calcolati dalla procura. Devo dire, guarda, senza alcun dubbio, la mitica Ruby. Sette milioni. Cappello, si fa per dire. Tanto perché di cappello, leggo sui giornali... Sì. Leggo nelle presunte intercettazioni cioè, ma sai cos'è la verità? Lui, cioè, perché dici tanto di cappello? Perché dici tanto di cappello? Vuol dire, ma che gli porta? Perché Berlusconi non è che i soldi li pesca nell'orto e poi li regala. Cioè, Berlusconi ai soldi tiene. Per lui cui tanto di cappello avergli spillato 7 milioni di euro. A chi? A Berlusconi, dico. Chi, tanto io? Di cappello. Ma no, tu, Rubi. A Rubi, leggo questo. Guarda, molto sinceramente. No, però è una frase interessante quella che hai detto. Tanto di cappello a Rubi che ha spillato 7 milioni a Berlusconi. Sì, perché Berlusconi bada bene ai soldi. No? Non è mica è uno che dice mi servono 100.000 tie. No, ti servono perché. Cioè, voglio dire, c'è stato, guarda. Posso... Beh, ragazzi, ma perché lo ricattavano? Perché, ma ricattavano dai, di che? Ma lo ricattavano. Berlusconi voleva che queste qua fossero zitte e raccontasse un'altra versione. Guarda, fatemi dire una cosa, vi prego, poi mi licenziate. Ma ricattare di che? Che erano prostitute, si sapeva. Ma perché venivano indotte alla prostituzione delle prostitute? Erano prostitute. Dovevano essere obbligate. Cioè, non le ricattavano di che cosa? Una cosa. Ma erano prostitute le oggettine? Lo dicono loro, che erano prostitute. Beh, oddio, l'hanno mai detto. Insomma, erano prostitute, non è, la prostituzione è una novità questa qua, hanno sempre negato una loro, cosa, però. Il fatto di dire loro sanno che cosa mischiano, parlano di droga, Berlusconi la droga non sa neanche che cos'è. Adesso mi dispiace dover fare io la difesa di Berlusconi, che fra poco deve andare in tribunale, va bene, a ascoltare una sentenza secondo la quale io non devo prendere neanche una lira di come si chiama guadagni di liquidazione oggi, Emilio, quanto guadagni oggi tu? Quanto mi danno? Quanto guadagni oggi? Oggi guadagno con un quinto. Oggi guadagno 8.000, ce l'ho qui, mi è arrivato da parte dell'Impigi, 8.590 euro. 8.590 euro di pensione? La pensione? Oh, dopo 60 anni di pensione, che facciamo? Poco, i retorici che dicono 8.000 euro. Ma sono un sacco di soldi. E fatemi il culo per 60 anni come lo sono fatto io. E poi c'è anche qualcuno, perché anche le care. 8.000. Quanti sono? Sono pochi 8.000, sono tanti, no? Sono tanti 8.590 o no? Beh, sai, quando mi pago la benzina, quando mi pago il leasing della macchina, quando mi pago da mangiare, quando mi pago l'affitto, perché io ho dovuto lasciare la casa che era un benefit che la Mediaset mi aveva dato, sono passato affittuario e quindi pago quello, pago la luce, pago il gas. Poi, e aiuto persone che sono state... E poi dice, quando ti paghi tutte queste cose dici non è poi tantissimo, no? No, quando mi rimangono netti 1.000-1.500 euro al mese. Cioè, ma insomma, sono giusti per campare. Per questo pane e mortadella me lo garantisco anche qualcosa di più, ma comunque al di là di quelle che ti garantisci ti garantisci pane e mortadella. Vabbè. Come? Ti garantisci pane e mortadella. Sì, non la mangio la mortadella, perché mortadella mi ricordo un mortadella che è meglio dimenticare, però voglio dire. Vabbè, comunque voglio capire, è una come Barbara Guerra che dice domani butto giù il cancello di Arcore, comunque vado a rubargli una macchina al vecchio. Beh, questa è vorace, però no, è molto vorace. No, non ho sentito, Barbara Guerra la conosco, intervista, incontrato un paio di volte. Ma è sparita dalla circolazione, non la trovano più, non va a testimoniare da nessuna parte. Che fine ha fatto? Senti, posso svelarti una cosa? Svelami una cosa. Ma io un giorno, una sera, nel centro storico di Milano, proprio uno che non ricordavo. Ma quando? Lei quando? Mi ha salutato, poi ho scoperto dopo che era Barbara Guerra. Dico, ma ti stanno cercando? Mi ha risposto sì, a casa, ma io mica sto là. Ma da quanto tempo fa? Due sere fa? Tre sere fa? No, quando? 15 quando? Giorni fa. Cioè, la stanno cercando dappertutto, 15 giorni fa l'ha incontrata per strada a Milano. Ma sei sicuro? 15 giorni fa, sì, non l'avevo riconosciuta, Ma non era lei, magari, dai. Vabbè, Emilio, ti devo salutare, dai, ti devo salutare. Come mi salutate così? Lo so, hai ragione. Una parola carina, ti vogliamo bene. Oh, sto scrivendo un libro, non ne lo vogliamo parlare. Lo so, poi ne parleremo, dai, poi ne parleremo di questo libro. Come cazzo si chiamerà? Che titolo avrà sto libro? Beh, il titolo, guarda, devo essere sincero, se lo accetterà, è quello che oggi in tasca mi ha messo esattamente niente proprio di meno che? Vittorio Feltri. Cioè, il titolo sarebbe Emilio Fede, ad Arcore ho visto tutto, l'unica testimonianza vera. È bello. Bah, vedremo. Ciao. Ragazzi, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione.